Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La fuga all'estero paradossalmente sembra la cosa più sensata da fare per i cittadini, in particolare per questa generazione, definita come tradita, sfiduciata, incapace di aggregarsi, ambiziosa. Forse perché ha un livello di formazione superiore alle precedenti, ma che negli ultimi anni, invece di lottare, ha trovato in un graduale e silenzioso spostamento oltre Alpe il modo di esprimere il proprio disagio. La generazione che invece di provare a cambiare il paese, sembra aver deciso di cambiare paese. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Le riflessioni contenute nel trailer del nuovo web doc della giornalista Claudia Cucchiarato, Vivere altrove, aprono oggi la nostra puntata. Dopo il libro Vivo altrove, Claudia porta in video le storie di alcuni tra le centinaia di migliaia di giovani connazionali costretti ogni anno ad emigrare. Per saperne di più, viveraltrove.com. La frase della settimana è copyright del commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor. La garanzia giovani può fare la differenza, con l'obiettivo di limitare a 4 i mesi di disoccupazione per un ragazzo, anche se l'Italia parte da una situazione difficile e dovrà fare uno sforzo significativo. Per il commissario europeo il rischio è una fuga oltre i confini del vecchio continente, tanto che Andor avverte: c'è una perdita di capitale umano nell'economia europea, se non si affronta la crisi il danno può diventare irreparabile. Noi ci limitiamo a ricordare come la disoccupazione giovanile resti inchiodata in Italia al 41,6%, 671.000 giovani in cerca di lavoro, lo scorso dicembre ne risultavano occupati 100.000 in meno rispetto all'anno precedente, abbondantemente oltre quota 4 milioni i giovani inattivi. Per il ministro del lavoro Giovannini, ogni anno 160.000 giovani escono dal percorso di studi e finiscono nel buco nero dell'inattività. Per la presidente della Camera, Boldrini, gli scoraggiati, caso unico in Europa, sono più dei disoccupati. Ma sentiamo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano martedì all'Europarlamento. Il dato emblematico, riassuntivo di tutti gli effetti negativi e traumatici della crisi, è l'aumento della disoccupazione e l'impennata drammatica della disoccupazione giovanile. E intanto noi, anche sull'onda di questa introduzione molto europea, torniamo a Bruxelles, capitale comunitaria e centro di attrazione per decine di migliaia di giovani connazionali. C'è molta incoerenza sull'essere giovani in Italia, se giovani solo nel mondo del lavoro, per tutto il resto si cresce molto rapidamente. Io credo che sia la prima grande scusa che hanno trovato per strappare le ali ai giovani. Paolo Quartulli, 33 anni, è un International Project Manager per Gaz de France a Bruxelles. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Nuovi dati ufficiali sugli italiani residenti all'estero. Allo scorso 31 dicembre, secondo il Ministero dell'Interno, sono 4.482.000, quasi 2 milioni e mezzo vivono in Europa. L'incremento è di 140.000 connazionali oltre confine rispetto all'anno precedente. Anche l'Eurispes conferma: cresce l'emigrazione dal bel paese. Secondo il rapporto Italia 2014, negli ultimi 10 anni la cancellazione di cittadini per trasferimenti all'estero è passata da 50.000 a 106.000 unità, con un'impennata soprattutto tra gli under 35, tasso di crescita rilevato al 54%. Tra i paesi prescelti ci sono la Germania, meta preferita dai giovani laureati, la Svizzera e il Regno Unito. Rilevante pure il flusso migratorio interno: nel 2011 oltre 173.000 spostamenti di cittadini dalle regioni del meridione a quelle del centro-nord. E il numero di immigrati in Germania intanto ha raggiunto nel 2012 il livello più alto dal 95, secondo l'ultimo rapporto tedesco sulla migrazione. I principali paesi di provenienza sono Polonia, Romania e Bulgaria. L'Italia è il quinto paese di origine dopo l'Ungheria, precediamo Spagna e Grecia. 2 anni fa l'esodo di connazionali in Germania ha fatto registrare più 37%. La penisola, al contrario, perde attrattività in ingresso. L'immigrazione nel bel paese, secondo ISMU, è ferma. I nuovi permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro nel 2012 si sono quasi dimezzati, mentre, conferma ISMU, l'immigrazione all'estero degli italiani delusi è in costante crescita al sud, ma pure nel settentrione. Record di cancellazioni anagrafiche in Molise, più 147%. La Lombardia risulta invece dal 2007 la regione capolista per numero di emigrati. E torniamo a parlare di laureati. Sale il gap occupazionale tra neodottori del nord e del sud, denuncia Alma Laurea. Tra le due zone d'Italia il divario è pari a 17 punti. Il tasso di occupazione è del 52% tra i laureati al nord e del 35% al sud. Da sottolineare pure che le retribuzioni dei laureati che lavorano all'estero, 2.300 euro, restano significativamente superiori a quelle dei colleghi rimasti in madrepatria. Alma Laurea conferma la tendenza. Se guardiamo invece all'Italia, sono più elevati i guadagni mensili netti dei laureati al nord, 1.086 euro, rispetto alle regioni centrali e al mezzogiorno. È un dato di fatto che in tutta la penisola le retribuzioni dei laureati risultano in diminuzione. A Giovani Talenti continuiamo a raccontarvi storie di controesodo in Italia. Nel novembre 2012 abbiamo ospitato un giovane direttore commerciale in Lussemburgo che covava il desiderio di tornare a casa. Neppure un anno e mezzo dopo ce l'ha fatta. Come? Ce lo spiega lo stesso Dario Dall'Oste. Il ritorno è stato dettato più che altro da motivi personali di famiglia. Quando in Italia ho lasciato mia moglie e mia figlia, però i motivi che mi hanno spinto ad andare via 4 anni fa persistono e professionalmente sarei rimasto in Lussemburgo. Quanto ti è costato in termini di rinunce tornare professionalmente in Italia? Per tornare in Italia qualche passo indietro l'ho fatto. In compenso ho trovato un'azienda leader nel suo settore, una multinazionale che mi ha aperto le sue porte e che sicuramente non mi avrebbe accolto come ha fatto senza i 4 anni lussemburghesi. L'esperienza all'estero comunque ha contato nel tuo percorso professionale di ritorno? Ha contato moltissimo, ha pesato moltissimo, la rifarei. Mi ha dato l'opportunità in poco più di 4 anni di fare un'autentica esplosione professionale che in Italia sinceramente dubito fortemente avrei avuto l'occasione di fare. Il mio unico motto è quello di sperare di essere tra un gruppo sempre più nutrito di professionisti che dall'estero rientreranno, a cui però deve essere dato modo di lavorare con merito, con soddisfazione, con riconoscimento dei risultati ottenuti. Infine, 80 tirocini per altrettanti giovani laureati per un'esperienza lavorativa di 4 mesi in Europa sono stati annunciati nell'ambito del bando IMP-EXP Orizzonte Europa. Scadenza per le candidature 16 febbraio, email info@gruppojovine.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Belgio. Questa settimana non vogliamo tanto concentrarci sul problema della fuga dall'Italia dei nostri migliori giovani laureati, ma vogliamo piuttosto capire una volta per tutte quali sono i blocchi che ne scoraggiano la crescita professionale nella penisola, quando anche un lavoro riescono a trovarlo qui. Nome: Paolo. Cognome: Quartulli. Età: 33. Città di origine: Ostuni. Studi: ingegneria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? Bruxelles. Perché? Per ambizione professionale. Quale lavoro svolge attualmente? Sviluppo di centrali elettriche. Dove? In giro per il mondo. Tornerai? Non credo, sto pianificando di andare fuori dall'Europa. Allora. Il fenomeno belga Stromae à la Rondance per introdurre la storia di Paolo Quartulli. Io non appartengo a quelli che hanno difficoltà a trovare un lavoro, ma a coloro che un lavoro l'hanno sempre avuto. Tuttavia, più che una via verso la gratificazione personale, ha rappresentato l'inizio della frustrazione. E a pensarci è terribile. Ci metti una fatica immane a trovare impiego, poi quando ce la fai ti accorgi che è solo una forma di sostentamento. Per la mia generazione la situazione italiana è una spirale contorta, un circolo vizioso che non ti fa andare avanti, ma ti fa girare a vuoto. Paolo, il tuo atto d'accusa al paese straordinario rivela la verità che forse non abbiamo neanche il coraggio di accettare. Siamo ostaggio, ti chiedo, di una classe dirigente mediocre, superficiale, incapace di dare una qualsiasi idea di futuro all'Italia? Sì, io credo che ci siano due classi dirigenti in Italia. C'è la classe dirigente di serie A, che è quella che un po' si vede nei salotti televisivi, che è esattamente quella che dici tu, che più che una qualsiasi idea non ha esattamente un'idea dell'Italia. E poi c'è una classe dirigente di serie B che rispetto, che è quella che un po' mantiene a galla questa nostra povera nazione, che è fatta dai piccoli dirigenti, è fatta dai dirigenti delle piccole aziende che cercano di portare avanti un po' quello che ne rimane. È sicuramente un ritratto molto lucido quello che fai, è molto interessante. La tua storia inizia in Puglia, tua regione di origine, che lascia 18 anni per iscriverti al Politecnico di Torino, ingegneria, una laurea in meno di 5 anni, a tempo record. Il tuo personale voto ai nostri atenei? Dal punto di vista didattico ottimo, io ritengo che siano all'altezza degli altri atenei in Europa. Hanno solamente un problema relativo alla lingua, è un forte scollamento da quello che è il mondo del lavoro. Quanto è grave secondo te questo scollamento però? Quanto è deleterio per chi come te non ha mamma e papà alle spalle pronti a trovargli un posto sicuro? Più che un posto sicuro è deleterio perché tu, quando ti affacci al mondo del lavoro, non hai minimamente un'idea di dove stai andando. Quindi se sbagli ad aprire quella porta, il rischio è che se non la raddrizzi subito potresti intraprendere una carriera che non è esattamente la tua. Ma a posteriori te ne saresti andato direttamente a studiare all'estero se dovessi rinascere? No, sarei rimasto in Italia perché credo che sia il punto di partenza della rinascita italiana. La tua storia è anche la storia di chi in Italia si è dato da fare, il lavoro l'hai trovato subito, il problema semmai è stata la qualità. Sottolineo qualità di questo lavoro. Prima esperienza in una multinazionale straniera, pessima, ricordi, perché? Perché le aspettative erano diverse, perché ti affaccia il mondo del lavoro e non hai idea, quindi speri che qualcuno almeno ti dia un'indicazione. Cioè, mi sono ritrovato a fare un lavoro che non aveva nulla a che fare con il mio background, per lo più una posizione che dopo 5 mesi è stata chiusa perché non aveva una pianificazione futura. Sempre il concetto di pianificazione in Italia manca. Seconda tappa in una società specializzata nelle costruzioni delle centrali a biomassa, impari moltissimo, ma con la classica motivazione all'italiana, quando chiedi di fare un salto qualitativo, ti viene risposto: sei troppo giovane. Essere giovane, anche se di talento, in Italia è una colpa, ti chiedo e ti provoco. Ma più che altro è diventata una disgrazia. Infatti c'è molta incoerenza sull'essere giovane in Italia. Sei giovane solo nel mondo del lavoro, per tutto il resto si cresce molto rapidamente. Io credo che sia la prima grande scusa che hanno trovato per tarpare le ali ai giovani. Per tarpare le ali, sottolineo questo. Terza e ultima tappa in un'altra azienda, dove finalmente ottieni il ruolo di project manager. Qui il tuo pellegrinaggio nell'Italia delle promesse tradite arriva al suo zenith. Ti confronti con quella che è la logica economica dell'Italia di oggi. Tramontato il miracolo economico, resta un paese fondato sul gioco al ribasso. Ci spieghi come funziona questa logica del ribasso? Sì, questo è un po', secondo me, il motivo scatenante, un po' il circolo vizioso. Noi abbiamo un po' perso quella che era la nostra consapevolezza dell'unicità dei nostri prodotti e servizi, e piuttosto che elevarci ci siamo un po' abbassati a quello che è la globalizzazione, cosa che noi non ci possiamo permettere perché non abbiamo la capacità di lavorare in quantità, e quindi abbiamo cominciato a questa logica del ribasso, dove tutto viene venduto a un prezzo inferiore di quello che effettivamente vale. Anziché concentrarci sulla qualità, continuiamo a ostinarci sulla quantità, dove siamo perdenti alla fine. Non per girare il coltello nella piaga, ma se guardiamo le voci merito e salario, cosa ti ha offerto l'Italia? L'unico merito che ci rimane in Italia è quello di sopravvivere con quel salario, soprattutto in città come Milano e come Roma. Devo dire che sono due voci tabù, e giusto per fare un esempio, io non ho mai capito come mai durante il processo di selezione in Italia la prima domanda che ti fanno è quanto prendevi nell'altra azienda. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paolo Quartulli, 33enne ingegnere ed International Project Manager a Bruxelles. La storia di Paolo è la storia di un giovane che ha provato in tutti i modi a crescere professionalmente in Italia, scontrandosi però con un contesto lavorativo arretrato e profondamente gerontocratico. All'estero la prospettiva per lui è cambiata di 180 gradi. Riprendiamo allora l'ascolto della sua storia. Giovani talenti. C'è una parola, tra l'altro, che ricorre nelle lettere che ci ha inviato: superficialità, quasi un marchio di fabbrica nell'Italia di oggi. Il paese delle arti e dei mestieri, il paese dei creativi, sembra ridotto a una terra desolata, gestita con approssimazione, incompetenza e mediocrità. È questa la vera zavorra che sta affondando il nostro paese, Paolo? Credo proprio di sì. Legato alla risposta che ho dato prima, abbiamo perso quella consapevolezza che noi, soprattutto italiani, abbiamo un'unicità in tutti i servizi e prodotti che facciamo. Si è perso questo, ci si è adattati a delle regole che non sono le nostre. E la superficialità si vede soprattutto nella mancanza di pianificazione. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Quando ho preso la decisione di lasciare l'Italia, l'ho fatto con la speranza di confrontarmi con una cultura diversa e un'attività a più ampio respiro internazionale, ma soprattutto con progetti più complessi in gabinetti più strutturati, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Dove ti ha portato questa ricerca di soddisfazione professionale e in quale ruolo? Mi ha portato a Bruxelles, lavoro per la sezione di ingegneria del più grosso gruppo energetico al mondo. Svolgo l'attività di project manager per lo sviluppo di centrali elettriche in tutte le nuove nazioni via di sviluppo, quali Sudafrica, Sud America e Emirates. E attenzione, qui ti interrompo perché ci scrivi: in Belgio a 33 anni coordino minimo 10 capi ingegneria di ogni dipartimento, gestisco contratti fino a 8 milioni, opero in tutto il mondo, il mio capo è lì solo per supportarmi, ho piena autorità su tutti i miei progetti che poi vengono valutati con obiettivi insindacabili, il mio management è competente e umile. Qual è il segreto di un ambiente di lavoro stimolante e finalmente normale? Il segreto è quando la tua professionalità e il tuo impegno vengono riconosciuti, c'è rispetto fra le parti e quindi tutto viene responsabilizzato. Ci dici perché è così tanto importante venire rispettati sul luogo di lavoro quando si è giovani? Perché alla fine il rispetto è la base della responsabilizzazione di un giovane, ti rendi conto che tutto quello che fai non influisce direttamente solo su di te, ma influisce anche sui tuoi collaboratori, quindi su tutto il gruppo. Una mancanza di rispetto fa sì che la tua attività prenda una piega che non è esattamente quella che viene richiesta. L'Italia oggi è un paese per ricchi e per vecchi, anche se la ritengo come quella ragazza che hai amato e ti ha tradito. La odi, ma ti lascerà sempre qualcosa di profondo nel cuore. Allora ti chiedo, ci sarà mai, magari pure a breve, un qualche ritorno di fiamma fra te e l'Italia? Ma io ogni volta che ci ritorno in Italia ci faccio l'amore, perché comunque è una bella immagine. Esatto, respirarla, vederla, è sempre un'emozione. L'unico problema è viverla per periodi più lunghi di quelli che possono essere un periodo di vacanza. E allora io ti chiedo, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Ma al di là delle proposte concrete da cui ripartire, anche quali modelli cambieresti? Perché tu un'idea ce l'hai di modelli da cambiare. Tutti i mostri che si sono sviluppati nell'ultimo ventennio, io quelli lì li cancellerei, quindi consiglierei a tutti di prendere la televisione e metterla nel garage, di cominciare a capire un po' qual è la storia dell'Italia ed uscire fuori a riportarla in auge. La mia proposta effettivamente è quella che gli italiani devono tirare fuori la testa e devono ricostruire un po' quello che eravamo, perché questo è quello che si aspetta il mondo da noi. Ero a Dubai con il mio capo è un fiammingo, quindi una cultura completamente diversa dalla mia, e a domanda precisa cosa pensi degli italiani, lui mi fa: voi avete il più grande dono che una cultura possa avere, che è quello della creatività, ma lo usate poco e spesso lo usate anche male. Io credo che noi dobbiamo riprendere in mano questo dono che ci abbiamo e dobbiamo creare un piccolo rinascimento. Ed è qui con noi Giuseppe Medeghini, ingegnere che ha scelto di tornare in Italia, ma non per lavorare come dipendente, considerato il contesto lavorativo, ha scelto piuttosto di aprire una propria attività. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A un certo punto compresi che il problema non ero io, quelli della mia generazione, il problema era il sistema Italia, così Paolo ha sintetizzato uno dei motivi che l'hanno spinto a emigrare. Tu sei praticamente coetaneo di Paolo, Giuseppe, a differenza sua sei controesodato in Italia con un progetto imprenditoriale. Allora, condividi la sua disamina, c'è un sistema paese sbagliato? Sì, soprattutto per quanto riguarda i giovani, nel senso che cioè, il giovane viene visto come una risorsa da sfruttare più che da valorizzare. Cioè, io ho visto nella mia esperienza, prima come dipendente, prima in Italia, poi all'estero, quindi in Inghilterra, ho visto proprio l'approccio differente. In Italia venivo visto come un qualcuno da sfruttare fino al possibile. In Inghilterra invece avevo un progetto, c'era un progetto su di me, un progetto per farmi crescere sia dal punto di vista salariale sia dal punto di vista di conoscenze, quindi di corsi, dal punto di vista tecnico. E quindi proprio era l'opposto rispetto fossato a quello che... Fossato e dobbiamo cominciare a saltare culturalmente il modello, sì, da cambiare. La tua storia, laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, cui fa seguito un espatrio appunto a Londra, non per necessità ma per scelta, perché alla fine hai preferito l'ambiente lavoro oltremanica a quello italiano? Perché è molto più aperto, è molto più... c'è la concezione che l'impiegato è una risorsa umana, una risorsa appunto che va valorizzata. In Italia io ho fatto una breve esperienza prima di andare all'estero, di 4 mesi in una società di consulenza, si era creata un'opportunità, avevano selezionato la mia figura per un nuovo contratto presso Siemens, quindi la mia agenzia di consulenza era molto interessata, eppure ero con un contratto di stage a 8 mesi dove ci sarebbe stato un inserimento al lavoro a 4 anni e nessuno ha mai parlato né di aumento né di niente. Dopo 3 anni e mezzo la decisione di tornare, anche perché il rischio era restare per sempre all'estero, il tuo unico colloquio per trovare un lavoro resterà un aneddoto da raccontare. Nonostante un curriculum internazionale, la conoscenza di una decina di linguaggi di programmazione, un'esperienza all'interno di una multinazionale all'avanguardia, vogliamo dire, cosa ebbero il coraggio di risponderti in Italia? Sì, arrivò la fatidica domanda: qual era il tuo salario, qual è il tuo salario? E al salario ha detto: beh, qua c'è gente che da 15 anni che è con noi non prende questo salario, di certo non possiamo spenderlo per un neolaureato. E qui, diciamo, si è interrotta direttamente il colloquio, cioè, e il tuo passaggio successivo, la via che ti restava, controesodare in Italia ma da imprenditore. Nasce così il progetto Rethink Energy. Ci spieghi brevemente cos'è e perché hai deciso di puntare sulle energie rinnovabili? Sì, è uno studio di ingegneria che associa alla progettazione classica di impianti termotecnici, di climatizzazione, elettrici, antincendio, anche tutta una nuova tecnologia, cioè quindi tutta l'efficienza energetica, lo studio dei consumi, dei consumi previsti e anche lo studio dell'involucro e dell'integrazione delle rinnovabili all'interno degli edifici. Questo perché? Perché nel mondo dell'edilizia si è completamente stravolto negli ultimi 5 anni, abbiamo capito che il 40% delle emissioni deriva da quello e quindi l'Unione Europea ha deciso entro il 2020 saranno edifici quasi tutti a energia quasi zero e inoltre il costo dell'energia sta sempre diventando più insostenibile. Quindi. Dopo 3 anni posso dirmi soddisfatto, c'è scritto. Giuseppe, allora tornare con un proprio progetto in modo autonomo resta l'unica strada? Forse sì, dal punto di vista autonomo io ho trovato un altro approccio, nel senso che vieni più valutato per quello che fai, quello che sei, quello che offri, più che come un giovane da sfruttare. Quindi la situazione è dal mio opposta. Mi sembra un buon consiglio per chi magari ci ascolta dall'estero e sta pensando di tornare. Giuseppe, secondo te è all'estero che sta nascendo la nuova classe dirigente italiana? Io me lo auguro, nel senso che all'estero si capiscono tante cose, ci si arricchisce culturalmente, si vedono altri modelli. Quindi riapplicare dei modelli che ci sono all'estero e funzionano in Italia è l'unico modo e l'unica via per me per uscire dalla situazione attuale. Io ringrazio Giuseppe Medeghini, ti faccio anche un grande in bocca al lupo per la tua esperienza imprenditoriale e domanda di rito per Paolo Quartulli. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Quello di provarci, quello di venire fuori dai confini italiani, di prendere tutto quello che all'estero ti danno, perché questo è quel valore aggiunto che magari domani potremo riportare in Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Una Communications Analyst alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sede di Londra, scadenza per i CV 14 febbraio, info su ebrd.com. Un economista alla UNCTAD di Ginevra, Svizzera, scadenza per i CV domani, info su careers.un.org. E infine all'International Rehabilitation Council for Torture Victims, cerca ben 5 posizioni per la sede di Copenaghen, i settori sono finanze, risorse umane, comunicazione, scadenza per i CV dopodomani, info su irct.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. La diaspora italiana all'estero, soprattutto quella dei nostri giovani professionisti, può essere raccontata non solo sui libri, in radio o con i documentari, come abbiamo più volte evidenziato. Si può usare anche l'arte della fotografia. È il progetto che Samantha Capitano, 35enne fotografa a Londra, ha avviato nella capitale inglese, raccontando e pubblicando su un blog le storie e le immagini delle decine di migliaia di connazionali che popolano la metropoli britannica. Questo blog è un progetto che curo insieme a mia sorella Rossana, che è una sociologa e che vive anche lei a Londra, e nasce dal fatto di conoscere tanti italiani e di volere documentare proprio quello che loro fanno in Inghilterra. La cosa più interessante era farlo da un punto di vista fotografico. L'idea proprio di andare a scovare fotograficamente quello che loro fanno è stato insomma il punto d'inizio, diciamo. E la cosa più interessante del blog è proprio questo. Io vado nel loro posto di lavoro, quindi diventa una vera e propria sessione fotografica. Ecco, arriviamo a raccontarli. Noi volevamo fare questo progetto cercando di mettere un po' tutti, nel senso che il blog vuole essere un mix di cose. Quindi si va da chi è molto giovane, per esempio c'è la storia di Leonardo Scembri, che è un ragazzo siciliano che è giovanissimo ed è uno chef, e poi invece appunto si va a personaggi molto magari più importanti, tipo per esempio Clara Kaleo Green, che è la direttrice dell'Italian Film Festival. Il blog vuole documentare un po' tutti quanti. E come reagiscono alla vostra richiesta di venire raccontati in foto? Sono assolutamente contenti, positivi, e piace molto l'idea delle fotografie, insomma, e anche e soprattutto di voler dire la loro sull'Italia. Cosa dicono? Beh, sono molto arrabbiati, devo dire, perché ovviamente vivendo all'estero, insomma, hanno raggiunto determinati risultati e quindi sono molto arrabbiati su quello che in Italia si potrebbe raggiungere, non si ha per problemi, insomma, che sappiamo bene, di meritocrazia, di lungaggini, di cose insomma burocratiche, e quindi c'è molta molta arrabbiatura. Infatti chiudiamo sempre l'intervista con una frase del tipo torneresti indietro, e quasi tutti rispondono no. Se dovessi riassumere un messaggio che non è solo scritto ma anche fotografico, che emerge guardando e leggendo il tuo blog, un messaggio di questi italiani al loro paese, cosa diresti? Mi piacerebbe tanto che questi ragazzi tornassero indietro. Io lavoro tanto pure in Italia, sono molto apprezzata adesso dopo che ho fatto molta carriera in Inghilterra, e quindi vorrei tanto che riuscissero a ritornare qui e ad emergere veramente come sono riusciti fuori, insomma che riuscissero a dare una scossa a questo paese che ne ha bisogno. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.londrabeautifulpeople.com. Un motivo per restare.